venuto da lontano io questo Pippo Fresco, capito male? Il grande compreso, che sono tutti tanti apparecchi diversi dall'apparecchio elettrico, capito? Elettrici della camminina, io sono soltanto girare l'elica e manda soltanto il vento, manda, e se cazzo è. A te caggio, e vuoi quello fresco, fa di fresco, e vuoi quello caggio, non sei mai contento. Ah, ma così la patistina, non so, il lo caggio, poi sta tranquillo e pacifico, che è da Mario. Non come te noi, basta le dà, che si va a semare tu. Ma è da Lucaggio, è stato più bello di zio che non di ferro. Ma i moglieri, Lucaggio, non lo soffre nulla. Anzi, è più sana e più tranquilla. Quando fa il gatto di figlio, a te ne immaginerci. Abbia bella, vera, abbia bella. Ma perché noi soffrimo a chi il gatto non si possiamo. Oh, non è così. Mi tappi a Lucaggio, come ci fai? Oh, ya, cazzo. Certo, non si lascia dormire, non si lascia dormire. Sì, va bene, ormai. Grazie della chiacchierattina, mi ripeto a pigliarmi le cucce, va. Capito, già se magari ci attendiamo più tardi, ci attendiamo. Salutiamo a tutti, alle prossime, a domani. Passa, passa in cucina, male per più fresco, dai. Andati in cucina e per più fresco si entra qui. Ok, ciao Mario, ci sentiamo. Attenzione, presidente della Cina, buonasera. Attaccato già Giuseppe. Attaccato in vacanze vivi, allora se possiede allo fresco. Giuseppe, ben sentito. E beh, come ti andiamo? Come andiamo? Soffrendo di un caldo, siamo qua adesso a casa, stamattina avevamo in girella così, abbiamo fatto un giro e poi siamo rientrati. E a me il fogaccio mi brucia le orecchie, pare che abbia un coso, mio marito. Allora sai come ti mi brucia le orecchie, che cosa amara brucia? E faccia va tu, passi così. Io è più fresco a fare appena lo coso del terrazzino e tra chi si può studiare a destra, piano piano e se rispecchi sai per chi si male, vai che riguarda, ma lui si matta a maieggia ciao Giuseppe, grazie di essere entrato, di salutare sempre, ok, sempre in gamba, alle prossime Giuseppe. E ci sentiremo domani, che è domenica. Ciao Gio Maria, anche a te, salutami in casa e a tutto il QRA. Riprendi Giuseppe, aspetto il saluto e chiudo. Ciao Mario, comunque domani è lunedì, non domenica, è tutto, ciao Mario. Ehi, sbagliatevi Mario, Giuseppe, sbagliatevi. Dico, metti, ma Mario è sempre domenica, purtroppo è così Giuseppe. Pensa a te domani di travaglio, così è. Papa. Ok, ciao Mario, di nuovo. Basta quel volume per cortesia, Cos'è? Abbassare quella modulazione. Io ti ho capito, ripeti. Abbassa quella modulazione, che sei troppo forte. Che ha mangiato spinaci a mezzodì a Toledo, ho mangiato spinaci a mezzogiorno per quello. Poi lo tirano, se no mi dice tutti cosa, mi dice, capito? Toledo, fai da bravo. Oi, se faccio una voce grossa mi riconosci, buonasera Gianmarie. E buonasera, ben sentito, non mi dai se in giro. Mi sto portando mia figlia a Plaza Malavici, a Sciacquarsi Piedini, che c'è brutto tempo. Fa bene, fai bene, Tore. Bisogna portarli i bambini, bisogna portarli, almeno si svagano e soffrono, si riprendono, almeno i piedi. No, devi rinfrescarti anche tu i piedi, eh. Ok, si chiama Giuseppe. Giuseppe. Ehi, Antonè, ascolti a me. Ehi, che ti ascolto, io qui sono zona Bricomen, ti ascolto benissimo. Buonasera. Buonasera, e come ti sta arrivando? Qui il segnale è bello pulito, forte, è molto comprensibile. Venga anche a te a prenderti per mano e a farti sciacquare i piedini al mare. Becca di brecca. Vieni, vieni, aiuta, almeno siamo in due. Se vuoi pagare su ingresso. Becco, avanti il brecco. Non è, pigliami un paio di bulloni. Un paio di bulloni? Ma oggi è chiuso. A lunedì. Neanche sta mercato, è aperto, tutto chiuso. Cioè, dove te li prendo questi bulloni? Guarda a casa se ti serve qualcosa, non so. Qualcosa mi sarà rimasto. Guarda che comunque non c'è bel tempo, e comunque ben sentito, ben ascoltato da questa parte di grotte. Ben sentito e ascoltato anche a Gian Maria e a Giuseppe. E anche Vittorio, se non sbaglio, no? Buonasera Grotte, buonasera. Niente, adesso in questo momento, mentre è modulato, ho detto, fatto, ma Grotte a chi assomiglia? A Sgarbi? Tua figlia, ha detto così? Ehi, non mi copi bene. Pacca, assolutamente sì, no, sono sgarbato, ma no così, Sgarbi, dai. Perché Sgarbi mi è molto simpatico, allora dunque, dai, un po' il modo di lasciare un pochettino, mi dà il timbro della voce di Sgarbi, dunque mi è venuto in mente lui adesso. Capparoggio, ma io sono molto più bello di Sgarbi, diglielo. Ah, quello non ho più pallida idea, però Sgarbi, porca miseria, è pieno di donne. Il soldo, però. Vittorio. Ehi, Cappa, saluto Gian Maria. E tutti quanti, Giuseppe, Antonello, e anche Tento. Ma il problema, secondo te, che il caldo è sempre imperterrito. Padre Roger, ascolta, in alternata sempre mi senti? No, adesso no. Ho eliminato un po' di mondezza dal tavolo, guarda. Ne avevo tutti i colori, fra calamite, tutte cose, cioè un banco magnetico. Hai visto? Paroggero. Tomari. Eccomi qua. Saluti voi tratti con la buonasera e ben sentiti. Vittorio, vediamo un po', Vittorio. Ehi Giovanni, cosa stai combinando? Niente, adesso come a me. Sto guardando la TV e chiacchierando più o meno. Tanto per ammazzare il tempo, cosa vuoi fare Vittorio? Noi a caldo ci possiamo andare, abbiamo una certa età, per cui i giovani invece hanno tutto il diritto di andare a rinfrescarsi un po', almeno i piedi, se non tutto. E voi tutti bene, sì? Tutto bene, signore, è importante andare avanti. Si invecchia, però naturalmente bisogna anche stare parametri della gioventù. Aspetta, voglio sentire Antonio Grotte. Ah, tu! Però già stai arrivando una bomba, Gian Maria, oggi. Oggi hai preso vitamine forti, Come stavo dicendo a Giuseppe Leoncino, oggi mia moglie mi ha preparato un po' di spiracci e mi sono un po' imbuffato. Si vede, già si vede, oggi forte più che mai. Antonello, attenzione Antonello di Ussilandia che sta andando a bagorrente. Negativo, scomparso dagli schermi e radar. Non riprende, forse magari non può parlare in questo momento. Io vorrebbe essere Giuseppe pure. Giuseppe! Ehi, sono qua. Ah, io dica che cosa, io mica è stato anche Vittorio Volpe. Ehi, ci siamo sentiti stasera con Vittorio, facendo i controlli a Antonio, quella specie di... non ricordo degli apparati che non riuscivo a metterlo a posto. Se hai ragione, uno non ne serve, l'altro neppure. E per forza se ne tratta, ogni morto di pappa li tratta, così che a un certo punto se ne fanno benedire, vi tu. ti ho sentito, ma lo sapevo che eri tu, comunque ti sentivo sul 5 che a momenti sentivo bene, a momenti sparivi ed eri fuori, dai. Fuori tre pagine da Ligi? Fuori tre pagine da Ligi? Strano, è troppo, non è che si capisca bene bene la frase. Perché c'è, è un reverbero questo, adesso cerco di diminuirlo, se ci riesco, così dovrebbe andare bene, vediamo un po', 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'è troppo reverbero, beh, attimo grosso. Oh, zero, un pochettino eccessivo, vero, mi sembra, sembri quasi lontano, capito? Lei, questo è un reverbero. Adesso ti invito? Leggermente sì. Vivo solamente musicale, capito? Staccaci la chitarra. Suonaci un pezzo, no? Se pure lo faccio, ma va bene, secondo me. Pugito. Io sono la tastiera e la chitarra. Perugio, che tastiera hai? Una con capolotto o Mega Station. Che a me è rimasta una Roland D50, non so se la conosci, è una tastiera che andava molto negli anni 80, che c'era tutta una serie di effetti speciali. Non la conosco. Era ottima per simulare l'organo in chiesa. Sì, la Roland c'ha una campionatura di pianoforte molto buona, anzi addirittura forse la migliore sulla campionatura dei piani. E io da quel punto di vista preferisco Yamaha, per quanto a casa c'ho un Gem. La Gem hai? Un Gem che ha campionato il pianoforte, il Gran Coda Yamaha. E ho capito, ma cosa alla suoni anche tu? E K, sai cosa facevo io, no? No. Io per un periodo che va dal 1995 al 2007, quando ci siamo conosciuti forse, io facevo il cantante lirico. Ah ecco, hai inciso qualcosa? K di Roger, non solo, ho studiato al conservatorio, no? Ho capito, insomma allora siamo musicista. Musicante. Siamo in pochi in frequenza come musicisti, eh? Può fare il gruppo allora, il gruppo CB. Mari, tu cosa suoni? Io suono la fisarmonica, ma è già fresco da Paduate. No, non mi sentivo bene il dito così che ero dovuto ammollare per forza. Tu non suoni niente? Cattivo. Per organizzarla la cosa allora, eh? È tribula, se no. Tu non suoni neanche il campanello di casa? Un attimino, mi squilla. A raggiungere Antonello, che secondo me è fuori porta, mi ha portata. A Padre Roger, adesso sei uscito fuori, sì. Dove sei? Dove sei arrivato? Negativo, fai da ponte se lo ascolti, perché non riesci ad arrivare qua. No, neanche lo ascolto, si è preso il bivio di Portamona e la discesa, lì negativo, A meno che non salga poi su dove c'è la cosa, la salita del Marini. No, ma quella credo che l'abbia già superata, perché da Brico maneggiava da un bel pezzo, quindi ha fatto la discesa di Marini, niente, ormai sarà lì nella discesa del Portamona. Sono qua in zona, brutta zona dove sono io, sette voi già. In 5 minuti si fanno pochi chilometri. Adesso l'ho sentito. Antonio, vieni avanti che adesso riesco a copiarti. Nessuno. Ti copio io, però sei basso, eh. E se va? Roger, sto dicendo a te. Fa. Antonio, vieni avanti un attimino, guarda se riesci a copiarlo, già mai. Io lo sento, avanti Antonio. Che Santiago non ce n'è, però la radio 2-3, dai, già riesco a copiarti abbastanza bene. La parola, adesso l'ho copiata anch'io. Oh, veramente, adesso ho messo veramente molto disturbi qua, molto interferente. Sta riaprendo la propagazione e c'è un po' di bailame e di QRM che sta tirando su. Infatti ho sentito anche che c'era un po' di fracasso. Vedi un po', vedi tu? Sì, no, non lo ascolto, Antonello. Ormai è verso quel versante del mare. E lì la zona negativa, perché io ho alle mie spalle Monte Oro. Il ripetitore è dietro di me. Va, ma io arrivavo sempre ancora. Dove sei arrivato a Torino? Sono arrivato qua al video, la Cavona, destra Sorso, sinistra Porto Torres. Ah, ho capito. E allora si avvicina là a Pangorrente. E sarà inzuppato per tutta quella spiaggia questa sera, cazzo, deve essere che c'è molta gente. Chissà che riesce almeno a parcheggiare. Sta risalendo parecchia gente perché non c'è un bel tempo. Qua per non sprecare acqua a casa. Che sta dicendo tu? Forse sente vento di mare, non lo so, c'è un caldo a morire qua, Ma caldo c'è caldo, però si stanno volando, non so se hai visto la parte di Plataona. Ma è tutto caldo quello lì, forse magari che l'arietta c'è sempre lì, la maggior parte. Poi, specialmente a Plataona, la maggior parte c'è arietta lì, capito? Zappa, dimmi una cosa comunque, non per assillare sempre, ma com'è questa modulazione? Ma se mi senti bene? Io ti sento perfettamente, e poi siamo vicini. Siamo vicini, ci sentiamo perfettamente, capito? In linea d'aria non possiamo, nemmeno un chilometro. No, adesso già c'è, perché io sono all'entrata di Serra a Serra, Io sono sulla Budivugi lì, vicino alla... dal bivio di sé, sulla rotonda di quasi. Insomma, alla coppa sono io, alla veloce, dai. Sì, allora sì, siamo belli lontani, siamo dall'altra parte della città. Ma arrivi bene, dai, arriva abbastanza bene da me, capito? Capito, Santiago è 9:20, per cui arrivi. Ma siccome questo apparato ha sempre avuto la modulazione bassa, adesso gliel'ho un po' tirata su, volevo vedere un attimino come stava arrivando. Vito, come lo senti tu? Adesso lo ascolto bene, prima male perché stava la volta servita facendo, però adesso ti sei rimasto bene. Doge, grazie, adesso cambio anche il microfono così ti amplifichetto. Avanti Leoncino. Diciamo più forte allora sono io qua in questa zona che arrivo forte a Giovaria. Bravo Gesù, sono contento. A meno c'è qualcuno più forte di me perché io sono piccolo e nero come Calimero. Vediamo un po' se sentiamo Antonello. Antonello! Non c'è più, evidentemente è arrivato all'appunto e ha spento tutto. Riprendi di tu. Quindi il nome non è già a bagno, quindi non ha bisogno di ormai di fare discorsi. E poi è andato con la cucciola per portarla al mare. Quindi è a posto. Niente, Giuseppe, tu com'è la situazione piuttosto? Sei pacifico sulla montagna, tutto quanto ormai sei in un sito solido. Arrivato. Dimmi Antonè, arrivato sì, parcheggia c'è. Allora vai, ciao Gio Maria, ho detto una ronda, se mi compia, sono al campo. Oh, d'accordo, buon precedente, buon innaffiato a piedi allora, ripresa tu. Tu ne sei. Sei rimasto in quel ricco, suppongo. Sì. Vito, che non ho capito bene quello che hai detto. Perché ormai ti sei consolidato con l'antenna e con la struttura fissa. Questa è un'antenna che e provvedura, però va bene così. Naturalmente il segnale di 7, te l'ho detto, però se per caso un medico d'antenna là vai oltre 9, eccetera, quindi il segnale è importante. Ho capito, beh, adesso vediamo con l'antenna fissa, tanto per il fotografico è qua. Scivolo, le faccio. Ho capito, e ripeto l'antenna quella che mi devono mandare. Benissimo, meglio così. Anto, a te. Roger, cosa ti sei preso di antenna con C? Lo turbo. La ringo. Turbo, però questa non ce la puoi usare, Capo, ma lo sentite questa specie di innesco che c'è sotto? Non mio, ma in frequenza. Sentivi tu? Guardate, mi fa schifo. Infatti, l'assetto pare, sembra che sia il ruspiti solo, Giuseppe. Sentiva un innesco. Oh, hai capito l'antenna tu? Questa si chiama Ringo Turbo, proviene da Milano, ma la devo mandare a fine mese e poi te la faccio sentire come esco. Com'è visivamente? È simile alla Ringo però con i radiali, com'è? Allora, invece di avere i radiali, questa qua è tutta lunga, hai capito? Assomiglia, come ti posso dire, ce n'è una quasi precisa alle luci gialle, se tu conosci la zona qua per scendere a Platavona, ce n'è una simile, però questa rimane un po' più gommata, hai capito? Certo, ma c'è sempre l'avvolgimento sotto, solamente la molla. Rogero, sì, però è rinforzata, hai capito, è bella tosta, questa si chiama Ringo Turbo, da Milano proviene questa cosa. Quanto ne vuole? Perché la Ringo, che se non sbaglio è della LEM, c'è la fabbrica a Milano, è da lì che vengono, per forza. E quanto viene? Allora, questa qua, Fusaro lo vende 38, io l'ho pagata 27. Attimino, ma Fusaro, Ringo Turbo, ma la Ringo Turbo, tu stai dicendo uguale alla Ringo normale, perché io c'ho la Ringo, poi non so, l'ho comprata a poco e costava appunto 38, non so se sia Ringo Turbo o... No, è tutta diversa da quella che c'è a Fusaro, a quella che sta arrivando tramite un'altra persona che è salita su a Milano, un amico, ma ha detto lui guarda che c'è questa ditta che c'è questa antenna qua, quanto fai il favore, prendimela, quando scendi ti do i soldi, e mi ha detto vabbè non ci sono problemi per i soldi, te la faccio mandare, ho detto mandamela. 27 euro, ma anche per 38, se è superiore c'era da prenderne un calascio e rivendersele. Perciò adesso vediamo com'è, come la porta, la sentirai dopo che farò tutto quel lavoro di murare il muro, tutto quanto, cemento rapido, e verrà che la sentirai bella in azione, capito? Cappa, ma chi ti aiuta? Pomponio. Cappa di Rogero. Ma bravo ragazzo Pomponio, bravo ragazzo, sempre disponibile ad aiutare. Va bene, lo facciamo quando abbiamo un po' di tempo, hai capito? Giustamente lui lavora, io sto lavorando tutta la settimana, disponibile c'ho solo la domenica e basta. Per Roger, no, ma dico, Antonello è, da quel punto di vista è sempre stato disponibile, nel senso che da sempre. Ti prendi, Giovanni? Ma prima erano così quasi tutti, in un certo periodo, eravamo tutti disponibili, uno aiutava l'altro, per cui era sempre sempre bello, forse era più bello di prima che era adesso, magari adesso già siamo in pochi, però la gente un po' più riservata, invece prima si dedicavano molto agli altri, capito? Per cui c'era più amicizia, più buona volontà. Spero che tu. E così è. Erano altri tempi però, eh. Io quando iniziai nel 1968, pensa, ho comprato un apparato, già nel 66 avevo un amico che ce l'aveva in macchina, lì la passione. Poi avendo fatto militare marina, ero RT, erano le collezioni apparati e praticamente la passione è ancora aumentata. E dai giù, ma negli anni, all'inizio degli anni 70, devo dire che eravamo in tanti prima di tutto, noi come adesso eravamo più di 100 modulanti su questa frequenza CB. E poi oltre a quello c'era il discorso che ci si incontrava, insomma, Dio lo sa, ci si incontrava e uno conosceva l'altro, ci si aiutava a vicenda, chi aveva meno tempo, chi non aveva, però chi aveva più tempo naturalmente uno aiutava l'altro, e c'era questo contesto. Oggi purtroppo è venuto a mancare perché la telefonia ha un po' rovinato e ha distolto tutta questa situazione, Dio Maria. Bianco per me. E infatti, anche quello c'è. Ma io mi ricordo, il primo periodo era una cosa bellissima, avere questa gente era una cosa bellissima. E per cui, insomma, ci dedicavamo, ecco, a tutti, ecco tutti, per cui uno aiutava l'altro e per cui la cosa era molto più bella. Chiaro che adesso magari siamo pochi che ci siamo, magari ognuno o il computer o il telefonino o cos'è l'altro, per cui la 27 mi sembra che stia andando e decadendo, ecco, però ogni tanto ne entra qualcuno, una chiacchieratina, dopo magari sa anni che non entrano. Però il sottoscritto c'è stato sempre. Per immaginare, così che lui a me è piaciuto sempre, sono stato sempre appassionato a queste cose e non l'ho mai mollato, mai, e finché non me ne andrò rimarrà qua. Gio Maria, sì, beh, questo sì, però il discorso è che chi molla non è che molla perché non ha più la passione, perché io sono rimasto 15 anni siamo là. E poi mi sono trasferito, poi uno si sposa e altri interessi, il lavoro che facevo non mi consentiva, non avevo tempo perché le ore che svolgevo il mio lavoro erano molte e il tempo a disposizione non avevo più, quindi addirittura il mio apparato che avevo regalato, avevo un Kenwood, non ti dico che cosa, se no mi viene voglia di andare a trovarlo in Arabia, quello stronzo. Gliel'avevo dato incomodo, lo uso, ma tu l'hai dato, io non lo sto usando. E questo si è un muratore, si è trasferito, non trasferito, è andato in Arabia a lavorare, a fare ville, palazzi, non so come te, e questo apparato mio è in via Galileo, fermo, dentro in una casa, senza poterlo prendere perché lui non riesce mai a trovarlo, questo stupido. È rientrato, sì. È rientrato, l'ho visto ad Alghero e mi ha detto 5-6 giorni, dice passo, dice dove lavorarvi, ci mettiamo d'accordo, così guarda se lo restituisco. Non si è fatto più vedere, è sparito. E sono praticamente 30 anni senza vederlo. E questo gli amici civili, proprio via, per carità. Più di uno l'ho regalato io, dai. E più di uno ho adempiato anche a fare la colletta per dare magari delle persone che non avevano niente, allora si faceva queste beneficenze. Allora io parlo di tanti anni fa, tanti, dico guarda, una cinquantina di fa, Vito. Quando io ho iniziato nel 68, ho iniziato prima, e te ripeto, c'era un amico, ce l'aveva nella bianchina, dopo che mi ha preso il dentro l'ho messo nella 600, la 600 quella al vento, non è che quella contro il vento, 67, la macchina. E però dopo sono preso il militare e da lì ho mollato un pochettino. Poi ho ripreso nel 73 4 anni e nel 78 ho mollato tutto quanto e l'ho dato a questo muratore, questo dice no, sono appassionato di luce, gliel'ho portato a casa, gli ho piazzato l'antenna, tutto a posto. Questo qua prende e se ne va in Arabia a lavorare e praticamente io non riesco per averlo. Lo stavo cercando, vi ripeto, l'ho beccato all'alghero e però non l'ho più visto. Non sono riuscito più a ritracciarlo, nel palazzo ho chiesto, cioè, ma questa è la persona, la vedete? No, non l'avevo più visto. Praticamente il mio appartamento dovrebbe essere dentro l'appartamento. Quello magari non ce l'ha più l'apparecchio, per cui non si fa vedere, sta tranquilla, ma va bene. L'acqua sarà poca adesso, per cui pregati, vuol dire che userai questo che stai usando adesso. E ok. Giuseppe. Sono qua. E ok, vai, è bene, non ci racconti niente tu. Cosa vuoi ti racconti? Che abbiamo festeggiato i 45 anni oggi e sono contento. Punto e fatto. Voglio infatti gli auguri a Giuseppe, no? No, Gio Maria, glieli faccio adesso perché non lo sapevo, è adesso che si è manifestato in questo modo. Molti auguri, Giuseppe. A 100, a 200, come vuoi tu? Grazie. Così, hai capito il discorso. Prima, il discorso di prima del vecchio PCB era tutta un'altra cosa, c'era più frequenza, c'erano altre cose, c'era anche una sede dove potevi avere collegamenti e tutto quanto. Il discorso è quello, poi una volta che sono morti quelle persone là che hanno fondato quell'associazione, non si è più saputo più niente, giustamente ognuno, chi si è sposato, chi ha veduto gli apparati, chi ha fatto quello, comunque ci sono tanti problemi, hai capito? Ma ce ne sono che c'hanno tutto ancora e magari non entrano, ascoltano e magari non piace l'ambiente, ascoltano solo ogni tanto e dopo lo spengono. Ce ne sono parecchi che c'hanno tutto e per cui non è che non ci siano, ci sono e ascoltano, perché io lo conosco 4-5 ogni tanto accendono, ascoltano e dicono tutto, capito? Ce ne sono parecchi, però non entrano, non li va, e c'è un'altra cosa più importante, allora non entrano, ecco, tutto lì. Bene, Vittorio, riprendi, io mi assento 5 minuti, rientro subito, dai. E così Giuseppe, sì, erano altri tempi, c'era più gente, modulava, c'era all'inizio degli anni 70 c'era più serietà, intanto non c'erano tutti questi canali che c'erano adesso, perché il primo mio apparato aveva 8 canali, pensa, poi l'hanno portato al 12, poi al 16, a meno male al 20, al 30 eccetera. C'erano pochi canali, però eravamo rispettosi, non c'erano tutti questi portati, non esistevano, quello che successe dopo, sì, c'era qualche scammanato, ma raramente capitava che faceva bizzarrie di questo genere, ed era più educato, ecco, tutto qui. Vabbè, prima c'era più rispetto e tutto quanto, non so se tu hai conosciuto quello che è morto, il vecchio presidente di coso di lì, Torre della Verde, non so se l'hai conosciuto. Io ho conosciuto tutti questi, io volavo da via Milano, pensa, allora, via Milano che era solo la parte anteriore dove ci sono i gommisti, che poi era stata bianca, non c'era niente, via Milano non esiste. faceva. Io mi lavoravo da quella palazzina, però era un po' precaria per il centro, perché era un po' più in basso lì, avevo dei palazzi di fronte, anche maledetti, che non riuscivo mai a passare. Quindi i portatori mi venivano male, se non erano giornate proprio di propagazione. I portatori erano chiusi tutti, ma anche all'Alghero, all'Alghero c'era un'associazione che avevano fatto, poi è andata male anche quella, insomma non ha mai detto una vera e propria organizzazione di questo tipo, né Alghero né a Cattere mai. Ma so se non c'è mai stata l'associazione, solo che c'era solo produttore, si è capito, e poi c'era questa cosa del CISO di Malta, che e basta appunto, e c'avevano queste palette, non le usavano per la sede loro, ho capito. Sì, era una cosa quasi privata, la usavano per le barche e queste cose qua. Sì, ma vabbè, il problema non è quello. Poi una volta ci eravamo organizzati a fare la scelta di noi, sto parlando forse nell'87-88, però non se ne è capato più, quando avevo ripreso io poi da quella scelta degli anni 70. E non se ne è capato più perché bisognava stanziare una certa somma. E quando si è trattato di stanziare una certa somma a tutti quanti, per creare questa associazione, hanno cominciato a tirarsi indietro, dicendo non c'erano né ho, quell'altro non insomma, abbiamo mollato. Ma discorso anche quello che una persona la trovi indisponibile, giustamente che ti dice che no, non è possibile, quando ce l'aveva, li avesse premessi, e come ho messo io sempre soli nella sede di produttore, cioè serviva qualcosa, il fatto che io avevo la possibilità e facevo sempre quel favore là, capito? Sì, però il discorso è che in radio ci eravamo sentiti tutti quanti, perché eravamo una decina, e eravamo tutti d'accordo a convenire a un accordo, e quindi già l'appuntamento in un locale, già predisposto per ritrovarci tutti lì, e tutti lì siamo arrivati a metterci a parlare, a discutere, e non se ne è fatto niente perché, cioè, a che cosa sei venuto a fare lì? Se sapevi che tanto non potevi accettare, se avevamo deciso che dovevamo stanziare una certa somma tutti quanti per fare questa cosa, e poi arrivi lì e non ci stai, e allora cosa sei venuto a fare? Giustamente, non lo so, adesso vediamo, ma te ne ha parlato Antonio di questa associazione che sta facendo di CB, che vuole aprire un'associazione? No, non me ne ha parlato, è strano. Lui è che te ne parlerà e non lo so, adesso vediamo. Antonio, Rosso. Ma tu non gli era arrivata una barca e non so se avrà finito. Oh, non lo so. Mio Maria, ci sei? Sono rientrata. Fai niente tu di questa cosa, Vittorio, di questa associazione che Antonio vuole aprire. Fai niente tu, io sono in apparato, dai. Va bene, ma c'è Antonio che lui che si sta interessato, vediamo un po' se è rientrato. Antonio, certamente ancora i Querrini, e Antonio Grotte che si sta interessando in questa cosa, io ho sentito più o meno, ma non è che si è corretto tutto, capito? Giovanni, non lo so, se è fattibile, il problema è che ci si è tentati una o due volte, tutto invece è andato a che io, perché molti non sono disponibili anche a partecipare per motivi anche di tempo, perché non è sentire soltanto la radio, uno accende la radio in due minuti, perché se si crea una situazione di questo tipo bisogna essere frequenti, nel senso che quando c'è stata l'assemblea bisogna essere tutti quanti. E come ad esempio in un condominio fanno l'assemblea, mettono in bacheca il giorno e l'ora stabilita per fare l'assemblea e non ci va nessuno. In va per conto suo, poi arrivano le batoste e tutti protestano, ma allora vengono tenuto l'assemblea. Ma è così, infatti, Vittore, io lo so che il Sassari non va. Lo ego, io lo penso in questo modo. Non c'è gente che collabora, lo capisco, perché come tu hai detto, non tutti sono disponibili, eccetera, eccetera. Ma ho provato anch'io, ma è inutile che uno faccia tante quelle cose, poi ce le mette anche la tasca e non è anche giusto, capito? Per cui se uno apre l'associazione devo anche collaborare, se no dico lo scopo, capito? Io ho sentito varie volte a parecchia gente hanno riprovato e non sono mai riusciti, perché il Sassari è difficilissimo. Infatti quando quell'associazione che aveva aperto questo Freccia, mi sembra, Freccia, quello che lavorava all'ambulante, non si chiamava, mi ero scritto anche lì, però anche quella si è sfasciata. Dopo sono scritto da Alghero ed ero un sacacciare da Alghero, capito? Da Alghero me lo pensionava e io quando mi chiamavano scendevo a ben volentieri, perché era una cosa ben fatta, la gente collaborava e per cui andava bene. Adesso non so se c'è ancora o no. Però forse è l'unica associazione quella di Alghero. Sì, è quella che hanno aperto qua prima, che hanno aperto Giulli e tutte le corde. In Sassa la prima associazione è stata aperta, anche quella lavorava bene, solo che a un certo punto direi l'hanno buttato fuori, dopo hanno fatto chiedere anche l'associazione come girare. La gente che fa le cose giuste, dove glielo lascio fare, allora cerco di fare qualsiasi cosa e di mandarlo via. E così hanno sempre fatto a Sassa, non sono stati capaci a fare l'associazione in grazia di Dio, per tutto. E allora preferisco rimanere così e basta, ecco, amici con tutti, però non vorrei entrarci in queste cose, capito? Perché se tu ti iscrivi, devi rimanerci e fare quello che c'è da fare. Certo, se ti sei preso così impegno, devi collaborare, devi essere costante da farsi che c'è da fare, sia la presenza, sia quello del contenuto. Però il contenuto viene a mancare nel momento in cui uno comincia a fregarsene, allora perdi. E allora che cosa? Se ti sei preso così impegno, mantienilo, vuol dire, e allora quando uno non mantiene l'impegno, evidentemente in lui c'è una pagliaccità. Molta gente dice sì, però bisogna confermare la cosa, fare le cose giuste, però se ne fregano, capito? Se ne fregano, allora non va bene, non può andare avanti un'associazione del genere, capito? Assolutamente, bisogna collaborare e tenere conto che se c'è da fare qualcosa bisogna anche adempire, se no niente da fare, perlomeno così. Adesso Antonio Grode mi sembra che sta cercando di organizzare, io gli auguro che si riesca, ma mi sembra che a Sassari è impossibile, credo che sia impossibile, adesso non so, potresti mi sia sbagliato. Perché ormai il discorso è la telefonia anche un po', perché prima i telefoni non c'erano, si poteva organizzare eccetera eccetera, e questo giovava fino a questa situazione. Oggi purtroppo i telefoni, cioè capito, perché la radio serve, a che cosa serve? La radio serve a tutto. Ma il telefono oggi è più breve, cioè capito? Che cosa puoi fare con la radio? Chiudi quelle cose là e basta. E la telefonia ha un po' cambiato la situazione. poi si riprende, sì, sì. Sì, sono addirittura 9:20. Infatti, altri hanno annullato direttamente. Bene, bene. Ma va bene. Io purtroppo devo chiudere là in momentanea. Chissà, forse fra una mezz'oretta, un'oretta. Che devo combinare qualcosa qua con la signorina, per cui ne approfitto là. Boh, precisamente detto, sarà tra te in famiglia e avremo occasione di sentirci ancora se coincidi. Saluto anche a Giuseppe, Antonio Gronde, sei in ascolto. Insomma, tutti gli ascoltori con la buonasera. Ascolta per il fine io chiudo Vittù. Ciao. Ciao Dio Mai, buon proseguimento di serata. Tante cose bene, saluto a tutti. A te, Giulio. Ciao, ci sentiamo in seguito, domani. Oppure... Vediamo un po' se è rientrato Antonio. Antonio, ci sei? Mamma, vedi, c'è un piano, c'è un Giuse. Ehi, cosa stai combinando? Break. Ti ho trovato il break, se non lo sto combinando, non usa. Sì. Parlando al baracchino, adesso tra un po' chiudiamo e ci guardiamo. Al caldo. Avanti, break. Il bambino. Saluto i circolari, volevo un controllino per vedere come sto uscendo. Atto. Atto. Ma non è attore. Storio. Ehi, Giuse. Ma non è entrato il break, chi è entrato? Hai sentito un break? Sì, volevo un controllino, ma mi è sembrato Antonio. No, negativo. E chi è? Stazione Occhi di Gatto, avanti. Stazione Occhi di Gatto, da Sassari? Beh, affermativo. Beh, la tua radio non è molto buona, però il segnale gli è forte, da questa parte. Ascolta, provo un attimino, ecco, così forse va un po' meglio, sto provando a regolare. Regola qualche cosa perché la radio non è molto bella, eh. Quindi hai una radio, la radio non va bene. La radio è un po' così. Ascolta, adesso io praticamente sto usando un dipolo e c'è qualcuno un po' più lontano che mi dà un controllino. Prova a passare la schema per i 27 e vediamo com'è esso. Da dove stai modulando? Che nome ti vuoi? Chiaramente gli Occhi di Gatto, vecchio CB che ha collegato il apparecchio e sta facendo delle prove avanti. Ho capito. Ma ti stiamo chiedendo, da dove stiamo modulando? Allora, la zona è più o meno via Napoli. Via Napoli, caspita. Dovresti essere buono per me, io sono una zona Monteoro, quindi... Però la radio non sta uscendo molto bene, c'è qualche cosa che non va, mi stai ingrassiando. Allora, guarda, io ho le regolazioni che c'ho qui però... Ora come? Ora sembra. Allora la radio sta, come dire, un po' saturando. Non so se stai usando un microfono amplificato. Sta un po' saturando dovuto a una sovralimentazione probabilmente. Guarda, adesso provo ora. 1, 2, 3, prova. Prova. Guarda, adesso sto uscendo meglio. Sì, adesso sto dicendo meglio, hai amplificato un pochino. È un problema di regolare l'uscita in watt e con l'uscita del microfono di questo apparecchio e quindi magari in queste frequenze va un pochettino, potrebbe creare problemi a breve distanza, anche quando non fai di access se c'è problemi di radio perché rischi di saturare. Ho capito. Che apparato stai usando, se non sono discreto? È un Kenwood 440. informazione dell'assistente che in via Napoli mi hai detto? In via Napoli, e sto usando praticamente un dipolo per i 40 e 20 metri, ma dovrebbe risuonare anche su queste frequenze accordandolo. Però volevo fare una prova, perché con te che ti sento forte, però poi c'era l'altro amico che lo sentivo più bassino, per vedere un attimino come mi riceveva, con quel dipolo o montando oppure collegando l'antenna della 27. Giuse, a te. Avanti, chi è che non ho capito il nome nativo? Allora, Giuseppe, ben sentito, stazione Occhi di Gatto, Fabrizio, niente, la mia zona è via Napoli, volevo un controllino da parte tua, è la tua zona di modulazione. La radio è 3, è segnale 3, più di questo non ti posso dare, però sei un po' basso di radio. Ok, ascolta, io adesso passo un attimino il tempo di girare il selettore dell'antenna e poi vi richiamo. Ti prendi il tuo. Sì, sta provando un riposo, evidentemente c'è qualche problemino, ma come radio non mi è sembrata brutta. Rimane un po' saturosa, sai com'è, voi bisogna vedere che regolazioni ci sono, perché quegli apparati là, su questa frequenza, qualche problema, ma qualche precarietà, usiamo un termine, certi apparati, mentre sulle altre frequenze, sulle altre bande lavorano molto meglio. Però non c'è problema, perché non è che deve fare un collegamento con New York, a livello cittadino anche quell'apparato funziona benissimo, capito? Si tratta di fare qualche tipo di regolazione e naturalmente controllare il dipolo, magari stazionare, eccetera, tutto è nel calderone, quindi direi che sia tutto alla perfezione, Giuseppe, se no, buonanotte, come te, quando devi non male, adesso invece è migliorato. Scappa, no, il segnale qua mi arrivava 3-3, capito? Dunque, qua dalla zona sono io, arrivava anche, non tanto benino, però già discretamente, capito? Eccomi qua, se mi ridai un controllino adesso, dici di radio che di Santiago, grazie. E adesso è migliorato, vedi, la radio 5, il segnale quasi 6. Ma perché adesso ho messo praticamente l'antenna in verticale, proprio ero col dipolo in orizzontale, quindi ovviamente con voi che siete in verticale sicuramente avevo un abbattimento. Vittorio, guarda come ti arriva a te la colazione. Da me 9:20, come segnale, la radio ha migliorato notevolmente, quindi cosa posso dire? 5 bombola. Capito, occhi di gatto. L'ho capito. Ascolta, io se non vi disturbo provo a un attimino a fare un po' di regolazione per capire quando sono su queste frequenze e come cavolo tenere il microfono, se non vi disturbo. Intanto c'è Vittorio che lui è più esperto di me e te lo può regolare meglio il volume e tutto quanto. Vai Vittorio che tu sei più vecchio di frequenza e sai come fargliela regolare. Vabbè, dai, io adesso sto usando un apparato che non è che sia molto professionale, quindi non è che posso dare. Comunque dai. Ok, guarda, adesso 5 secondi ti accordo. Ok, allora adesso sono accordato, quello che mi interessa, adesso qui dallo Smith sembra che sono all'interno della sua fascia, quindi non dovrei avere problemi di radio. Come mi ascolti Gio Maria? Non so Gio Maria comunque, sono Vittorio. No, la radio va benissimo, io vorrei fare però un appunto circa alla radio. Quell'impianto che hai tu è un impianto, si sente che c'è una timbrica buona, però a me devo dire sinceramente che non piace quel tipo di radio, come si dice, raucidinosa. A me piace la radio telefonica, come se stesse parlando al telefono, quello è il tipo di radio che piace a me. A me quel tipo di radio non piace, però so che è la meglio, mi sembra molto meglio, no? Non vorrei che non ci prendo per primo il punto. No, la radio è quella, proprio però a me non riesce con le timbriche del microfono, chissà perché, è una cosa che mi è rimasta sempre antipatica, mi piace la radio squillante, come se stesse parlando al telefono, e quella non è così, però devo ammettere che la radio vera è quella, sì, no, come radio è perfetta, no, il segnale non lo vedi sempre, non ha aumentato, rimane sempre uguale, è perfetta, il riporto che stai dando prima probabilmente era orientato più solo perché il riporto è una meditativa, è chiaro che se è orientato verso Italy, io sono un portatore, naturalmente c'è uno sbarco e quindi non riesce ad apprezzare tutto il raggio. Ecco, se io lo ripetiamo, va benissimo. Ho capito, allora io praticamente niente, sto usando questo apparecchio perché la verità è che l'apparecchio sulla 27 l'ho trovato, il mio problema è che avevo, come ho spiegato a qualcuno, quasi 15-20 giorni fa, avevo praticamente abbandonato tutto, sia la 27 che tutto, poi avevo preso la patente, poi siamo andati a controllare il nominativo ma non esiste più perché se non la rinnovi la perdi, infatti adesso probabilmente se ce la facciamo a settembre-ottobre la prossima sezione scendo a Cagliari a dare l'esame per riprendere il nominativo, se no non puoi uscire. E quindi sto tirando fuori qualche vecchio apparecchio che avevo, tipo questo 440, qualche tutta roba un po' più professionale. E al limite se rimango qua a fare qualche chiacchierata, c'è un problema, tiro fuori qualche apparecchio del genere che lo dovrei avere, giusto per chiacchierare. Avanti. Ciao Vittorio, ciao a tutti. Ciao Claudio, ben sentito, ben ascoltato. Sì, non ci sono problemi, perché non si disturbare, perché uno ha lavorato, prende, lo mette in atto e molla tranquillamente, la frequenza è di tutti, non ci sono permessi di accesso, per carità. Adesso lancio un attimino Giuseppe e poi rianci tu per Claudio o Giuseppe, vai. Ciao Claudio, come sei zitto? Mi ho chiedicato per Claudio Sparviero da Sassari. Ok Claudio Sparviero, ti ascolto, 9:10, ma sempre metto il QRM, radio bassina. Segnale buono, ma ti sento il metto il QRM, la radio molto bassina, avanti. Ma no, stai dicendo a me? No, tu arrivi 9:60 a fondo scala, l'altro amico che stava modulando 2 secondi fa. Giuseppe, sei giù, dalla bassa. Ciao, buonasera, ho chiedicato. Ti posso permettermi di dirti una cosa riguardo alla modulazione? Visto che stai usando il gemello di questo che sto usando io. Comunque, buonasera, ben sentito. Ho capito che hai perso il nominativo e allora vai a riprendertelo. Sei idoneo, non c'è bisogno di rifare l'esame nel modo più assoluto. Ok, allora, stai usando, mi hai detto, il 440, come questo quindi. La modulazione spero non sia uguale alla tua, poi ci confermerà Vittorio. Hai il processore inserito per caso? Guarda, allora, io praticamente ce l'ho fermo qualche 10-12 anni, quindi l'ho tirato fuori, mi devo anche vedere un attimino se sto sbagliando qualcosa nell'utilizzarlo, quindi a me tu c'è una radio che è stupenda, la classica radio calda dei Kenwood, che ho sempre sentito, probabilmente ho qualche settore, magari ne approfitto con te che mi dai due consigli. Io sono cambiato dalla nascita, le mie apparecchiature sono tutte che lo dico, ma io esso, baracchini non li ho usato ben pochi. Quindi, no, volevo capire se intanto, inizialmente, se Vittorio ci permette, Vittorio. Dimmi, gra. Regolo un attimino la modulazione di occhi di gatto, perché c'è qualcosa che non mi convince, visto che stiamo usando la stessa apparecchiatura e sicuramente Ok, Vittorio, ti ringrazio. Ma volevo partire dal microfono, poi mi dici come ti chiami, io sono Claudio comunque. Volevo partire dal microfono, se stai usando l'MC60, dimmi intanto. No, sto usando il microfono suo, se tu hai il microfono da base, il 60 è un'altra cosa allora. Processore, se te lo dico, dovrebbe essere disinserito. Allora, dici inserire il processore, poi regoliamo la radio, si dice il processore. Ok, adesso ci ho inserito il processore, ecco, aspetta, passo un po' se non riesco proprio a... E poi se l'ho disinserito. Ecco, adesso ho inserito il processore, massa leggermente la modulazione, quindi mi porta tra l'1 e il 2. Si solleva leggermente, pelino pelino. Ecco, dai un'occhiata adesso. Per me già la timbrica ha cambiato, non sei più rauci di noce come dice Vittorio. Confermi Vittorio. Guarda, adesso in questo passaggio, anche se sto leggermente, provo un attimino ad abbassare ancora, forse adesso va ancora meglio. No, sei troppo basso, solleva un pelino. Ecco, così sono un pelino sollevato. Sarà così, non lo toccare più Michi, va bene così, perché il processore ti toglie quella voce un po' grossa, quindi con tonalità troppo basse, come dice Vittorio, e te la porta un po' un po' bruttina, mentre con il processore inserito e il Michi in questa posizione ti dà delle tonalità medio-alte che confondono un po' quella voce rocidinosa. Va bene Vittorio, adesso lo senti meglio? Adesso va benissimo, eh? Riprendo io, perfetto. No, mi fa piacere perché c'era qualcosa in effetti che non andava. Ti ripeto, ti ho fatto qualche giorno fa, dopo 10-12 anni fermo, non mi ricordavo nemmeno del processore, la verità. Adesso in prossimi giorni se tiro fuori dalla scatola dovrei avere l'M83 dovrei avere, e quindi magari lo proviamo così, giusto per fare qualche prova senza disturbare sempre, avanti. Vabbè, io è troppo poco quando sento. No, vuoi aprire? Quando sento qualcuno in difficoltà intervengo sempre. Non ci sono problemi. L'MC83 non lo conosco, io conosco l'MC80 e l'MC85. L'MC83 non lo so se è il nuovo microfono che ha fatto la Kindle, non lo so. Comunque adesso stai andando bene, non devi gridare, la tonalità è buona. Hai medio alti abbastanza composti, quindi per me potrebbe anche andare. Poi mi spieghi, adesso faccio girare e poi mi spieghi. Come mai hai lasciato il nominativo da parte, non hai fatto richiesta? Perché c'è una formula che puoi recuperarlo senza dover riandare a dare l'esame, se sei idoneo. Se sei stato idoneo. Ok, allora Giuseppe, prende il microfono. Ecco. Il microfono è cambiato al 100%, adesso va bene, come usciva prima adesso è tutta un'altra musica. Ok, ora riprendo io vado un attimo di bianco che c'è un problemino e rientro fra 2 minuti. Comunque, no, forse è l'85, adesso io con queste sigle praticamente è quello che ha l'equalizzatorino ed è bruttino anche l'avere la verità, l'M60 è bellissimo, l'MC60, è quello con la base un po' grande dove c'è tutte le regolazioni. Che cosa? C'è un break. Avanti, chi è? Mi fa la 256 della Stoccarda, tutta la Germania, con gli altri amici. Vittorio, non lo vedo tedesco io. Sta vedendo l'italiano, però. Sta vedendo l'italiano, Vittorio. Vabbè, però, non so. Cosa stavi dicendo, Chirigato? Quanta chiama, con gli altri. La Stoccarda, buonasera, ben ascoltato, sì. 257, cos'è, un aereo di linea? Allora, 257 Slovenia, il locator Giulia November 40 Golf Romeo, la città è Sassari. Buonasera Roberto, ben ascoltato. Pensavo che parlassi un'altra lingua e quindi siccome io non sono molto abituato a parlare di lingue, le parlo solo in HF, anzi mi arrangio a parlarle, pertanto non volevo passare il microfono ad un altro. Chi è che ascolta Roberto? O chi rigato lo ascolti tu? Ah Rocio, non c'è problema, ok, di Sassari, oh, bello, bello. Sono stato già due volte in Sardegna, mi piace molto la tua isola. Ok, io sono volando dalla provincia di Stoccarda, mio nome è Roberto, Robin in tedesco, sono tedesco, mio cuore è da 13 Cialitango 256. Ok, dammi tuo nome, ripeto ancora tuo nome, amico di Sassari, cambio. Sono Claudio, la mia sigla qua è Claudio. Ok Roberto, c'ho un sacco di amici qua, vediamo un pochino se ti ha ascoltato. Occhio di gatto, vai per Roberto in provincia di Stoccarda, poi mi dici com'è, qual è il tuo nominativo, il tuo nome di battesimo, occhio di gatto. Ok, io sento quasi tutti le... Sto già vedendo, Parita. Tutte le... Fabrizio si chiama Occhio di gatto. Ah ok, anche io ti sento molto bene, Signal 7 Radio 5 qua in Stoccarda. Dammi il tuo nome ragazzo, dammi il tuo nome. Ehi, Vito. Non so se stava chiedendo a me, io mi chiamo Victor dalla isola della Sardegna, la 165, città di Sassari, un contemporaneo di Claudio. E sono in compagnia anche di un altro compaesano che si chiama Giuseppe. Ora te lo lancio Roberto. Va un po' male Vittorio, la copione, l'amico Roberto da Toccarda, non so se mi riesce a copiare il cambio. A te Giuseppe. Yeah, Vittorio, forse non mi copia bene a me Vittorio. Ma prova a salutarlo, vedi un po' se ti puoi ascolta. Attenzione Roberto, se mi vai copiando qua dalla città di Sassari, cambio. Giuseppe, io ti sento, vai. Da questa parte Giuseppe Leoncino che ti cordializza con 7351 dalla città di Sassari, cambio. Mi hai sentito Roberto, Giuseppe? Sento, ma il segnale non è... grande, Santiago 3, 4 forse, la radio 5. Io ho sentito qualcosa ma non lo so, okay. Ma tu sei molto forte, anche Vico è sopra 9 qua in Stoccarda, ma qualcosa ma Vabbè, ti ricordo che io e Vittorio stiamo usando delle antenne grandi verticali, lui ha un'antenna piccola, quindi sicuramente per quello che non riesci a ascoltarlo bene, riesce a capire che sta modulando ma non riesce a capire quello che sta dicendo. Ma Fabrizio c'è ancora, Fabrizio ci segue. Attenzione Nord Italia, secondo... È andato via Vittorio Fabrizio. Fabrizio si è assentato un attimino, che stava facendo una cosettina e riprendeva poi. Allora, attenzione all'Italia, Becker, la società della provincia Lecce, Becker. Sto prendendo la propagazione. Avanti, Lecce. Buonasera, buona vita la linea, qua la San Gennaro Patrago, la Taranata ci ricordalizza. Capito il tuo nominativo, qua Claudio la Sassa in compagnia di Vittorio e Giuseppe, avanti. Oscillando. Infatti ho sentito Alfa Tango operatore, poi non l'ho sentito più. Buonasera Alfa Tango, Claudio da Sassari in compagnia di Vittorio. Ti sento un po' con QSB, forse la propagazione va e viene, quindi il tuo segnale oscilla dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso, va bene. Comunque buonasera, ben ascoltato, avanti Vittorio. Operatore Aldo comunque della Repubblica. Non so se ne ascolta. Aldo ci sei? Vai. Da dove moduli Aldo? La tua posizione, la città? La città è il mio paese, si chiama Tulli, come Trauli, la provincia di oscillante la situazione, perché la propagazione non è molto delle belle, è oscillante quest'oggi, è buona però è oscillante, purtroppo ci troviamo in questa situazione, quindi i nostri collegamenti non ce ne possono fare. Grazie Giuseppe che riesce ad ascoltarlo, che è con noi, a te giù. Ehi, ma no, non ascolto Vito, fammi da ponte tu, saluto da parte mia perché no, io non riesco a cambiare lo scambio. Niente, a te che la... Sì, ok. Aldo, avanti, ci sei? Sì, Giuseppe non ti ascolta, allora. Ok, va bene. E quindi Vittorio è così. Purtroppo questa guy mi stava ascoltando poc'anzi. Ciò che facevamo prima... Siamo in buchi rimasti a farlo, mi ricordo appunto ti ascoltavo quando modulavi da lì, da vicino al QRL, e io ero già qua mi sembra, ero già qua, infatti ci sentivamo anche senza antenna. Eravamo a due un tiro di schioppo, che tecnica, anche se gli apparati che avevamo poi non erano poi molto professionali all'epoca, perché le apparati che avevamo erano proprio precipito, poi ne sono venuti dei buoni, chi ha acquistato lo ha avuto e quindi è andato avanti così. Però no, sono venuti a mancare queste cose, il telefono ha un po' sgangherato la situazione. Il telefono, il computer, Vittore, tante cose hanno causato un po' il manco di tutto, però in linea di massima, vabbè, io ripeto entro poco, li ascolto moltissimo. Quando vedo che c'è gente dove si può chiacchierare due minuti, allora intervengo, quindi rimango in QRX, no? Seguo tutto, tutti i giorni, io sono in radio, ascolto sempre, qualsiasi canale. Ok, vediamo un po' se Fabrizio è rientrato. Fabrizio, dico Giuseppe, riprendi. Sono qua. Non ascoltavo io Franco, la persona di Rovella, di Lecce, ha detto. Uno di Lecce e l'altro di Stoccarda. Quello di Stoccarda riuscivo a copiarlo piano piano, però anche quello mi veniva male copiarlo. Hai capito? Capito ti ho, non ci stanno problemi. Ripeti Vittorio, dai. Già sono belle le... Voi forse sapete oggi che sta facendo una bellissima giornata, è calda e quindi non puoi uscire e ne devi approfittare. Io non è che rimanendo dentro casa non ho hobby per distrarmi, per carità, ne ho abbastanza. Quindi non è che la radio è una cosa che arriva quasi, tu Claudio so che sei un appassionatissimo e quindi tutto qua il tempo lo rubri in quella maniera lì. Invece, essendo un piccolo musicista, mi diletto anche a suonare gli strumenti e quindi parte della giornata la trascorro diciamo il 30% alla musica e poi anche alla casa e alla campagna che qui c'è sempre da fare e tu lo sai. Io credo che la campagna è un benessere, però bisogna appunto fare sempre tante cose, va bene. Ok, purtroppo è così, e anch'io ogni tanto già ho da fare, No, le altre radio sono per aspettare la verità, ce ne ho un po' che accese perché c'è un callo, altrimenti ho anche il computer spento, no, un po' che c'è questa accesa e l'altra, basta. Tutte le altre sono tutte spente, se no un casino. Va bene così. Ok. Ma sei a casa Giuseppe, con l'antenna della macchina, così? No, sono a casa tra, sono a casa. Ah, sei proprio a casa. Ma sono a casa, sì. Poi riprenderò la macchina, lo sai come è. Siamo i due inventori, tra io e quell'altro, siamo gli inventori delle antenne. Ho capito, va bene. semplice, Giuseppe, no? Andare avanti oggi. Tu mi pare che ho avuto un discorso di uno scambio di situazioni lavorative che non è molto felice. E beh, Vito, ma c'era il caldo nella zona tua? Ma io adesso sono, io ho un campionato, ho una casa isolata, mi capito, da molte ore, ho la casa isolata, non ho nessuno vicino, proprio per questo che posso fare anche baracano in un certo modo, non mi disturbo nessuno, e sono stato in alto dove sono adesso per avere fresco, se la notte apro, la notte proprio apro tutto, entra tutto il fresco e poi alle 7 chiudo. E quindi qua io sono benissimo, ma condizionamento non esiste, questo è un fresco naturale, bello, e si sta benissimo, però su c'è più caldo nel piano di sopra, perché purtroppo lì aprono la porta, entrano, escono. Io invece qua ero scampinato con 100 metri quadri, vuoto, dove io e il mio impero questo, perché suono tutti gli strumenti musicali, e si sta benissimo. Ho capito, certo che partirà dalla tua cantina, che è fresco, e stai bene, e lì ci vuole un fresco e bufende. Per la luce? Io me la bevo la birra, ogni tanto c'è un sorsetto qua, c'è una Müller che me la sto isolando pian pianino, per disertare, perché anche i liquidi ci vogliono, no? Non può andare soltanto lui, no? Oi, cazzo, ragazzi. Famiglia, tranquillo. Sei in pensione. Allora, c'hai solo il tempo della campagna, basta. Beh, io, qua in campagna c'è un ferro da fare, non è vero che posso fare. C'ho un protetto, un rivagistito, ho fatto l'orto, però l'orto non è come comprare la lattuga al supermercato, no? La lattuga ce l'ho lì, i ramanetti sono lì, i fagiolini sono lì, e quando mi serve la cipolla è lì, cioè tutta questa roba, lì il pomodoro, stiamo facendo il pomodoro, ecco, tu la mangi la roba genuina, senti se pure il pomodoro, il pomodoro che compro al supermercato, che compro, non ne compro io, quando mi mancano le prendo così, ma mi via di urgenza, però mi faccio una sorta di pomodoro, i miei pomodori è tutto una cuba, cioè non so se mi capisci. Vabbè, la roba fatta in campagna è sempre la più buona, è la più sana della vita, è da metterci quella roba là e farle varie, è sempre la roba più sana, tutto quanto, e fai bene. Tanto quella cosa che quei tipi che stanno girando è la roba che è cosa cara, e chi lo può fare? Voi? Hai capito? Quindi i citrioli, le zucchine, tutta roba genuina. Quando vado a mangiarmi una mela, la mela è baccata perché io non curo. La mela è baccata, certo che è baccata, la apro in due, tolgo il verme e me la mangio. Però medicina non ce n'è. Le zucchine, quando me le mangio sane, i fichi, i fegori, tutta roba genuina. Perché oggi, se non mangi così, ma non vedete malattie che stanno uscendo. Giustamente, uno quando c'ha la cipriata, manca tutto, non risparmia la fatica, sì, però un domani raccoglie i frutti e il discorso è quello, no? Raccoglie i frutti, raccoglie salute, non frutti, i frutti si raccolgono perché devi consumarli, ma raccogli più che altro la salute, quale stai raccogliendo? Io ho un ettaro di terra, non ho 500 metri, no? 1500 metri sono adoperati al protetto, all'orto e tutta questa roba qua, olive eccetera, e tutto l'altro è tutto abbandonato a se stesso perché non lo curo, non mi interessa. Realmente sono soltanto quasi 2000 metri occupati, gli altri 8000 sono tutti abbandonati a se stessi in piano, libero esattamente perché non ci posso fare nulla. E che cosa ci può dire? E capa, allora una cosa, ma tu sei dietro dove ci sono i camion della della Mondezza, o prima sì, delle camere della Mondezza, del pulito delle camere della Mondezza. Le camere della Mondezza da me sono 800 metri in linea d'aria. Ah ecco, ho capito allora, per quello che... per quello, no, perché così ho chiesto, così pensavo che abitavi dietro del coso del cammino dei rifiuti. Sono 800 metri circa, beh, poi possono essere anche 900, non è che lo contate, insomma, si vede che io vi vedo, sono giù, e quindi in linea varia, occhio a croce. Ma hai ritratto chi era Francesco? No, era Gabriele, mi sembra, non mi ricordo bene. No, Fabrizio mi sembra, è possibile. Fabrizio, sì, Fabrizio, cosa c'è rientrato? Stava facendo delle cosettine e poi avendo rientrato, Attenzione, Fabrizio, se ci ascolti canale 17, cambio. Fabrizio? No, non c'è, no, Giuseppe. Hai capito? È la questione, capo. Festeggiato il compleanno, ci rientra nuovamente a base, a Alghero. Mi tocca il camere alle 6, alle 7 e mezza essere lì, fammi dalle 7 e mezza sino alle 5 di sera. Lavoro tu è quello e quindi devi in qualche modo sostenerlo, purtroppo, e meno male che c'è il lavoro però Giuseppe. Vabbè, è una stagione estiva, non è che sia proprio fisso, sono 3 mesi però... Non è che ci sia tutta quella gente, Alghero, adesso se non si riprende dal mese prossimo a viaggiare un po' di gente, perché se no, me l'ha già detto, se no non cambia la questione qua, se ti sono costretto a lasciarvi a casa e cercarvi altra cosa. Oh Giuseppe, passa al canale 18, un canale più avanti, perché questo è disturbatissimo, sento portante, c'è un casino del diavolo. Vai un canale più su. 18? Ok. Gitto, ci sei? Sì, guarda, anche questo è un pochettino incagliato, mi sembrava più libero, però avevo fatto un saltino, mi sembrava più libero. E il 17 è incasinatissimo. No, ma di solito io quando devo spostare il canale vado o sul 20 o sul 21. Sì, normalmente sono più liberi quelli, però questo 17 era incasinato, c'era una portante addirittura mi è arrivata a 9.30, sta annientato. Va, tranquillo, no? Normale. Adesso è a posto, evidentemente sono proprio in quel canale tutti quanti. Io non so, non si accorgono molti che quando sono lì, tutti addosso, uno si sposta, va a niente, rimangono fissi, non si muovono. Vabbè, la gente, sai come, quando vanno a vedere qualcuno parlare, ci vanno sopra e rompono le scatole. Ma se devi fare un QSO, ma spostati di un paio di canali, vattene in 14, ce ne sono 40 canali, a voglia canali. Prego. Ha registrato il brecco, hai capito Vito? Sì, ma non lo so perché sta sempre addosso. Vabbè, lanciamo questo brecco, vai. Buonasera a tutti, a te Vittorio e anche a te Giuseppe Leoncino, da questa parte Antonio Bongo, K. Ciao Antonio, ben ascoltato da quelle tue coordinate. Cosa stai combinando? Ti lancio per saluti Giuseppe, vai. Ciao Bongolino, buonasera, ben ascoltato. Tranquillo? Cappa. Io sono tranquillo. A voglia. Cappa, e voi? Ho sentito torna qualche maretta, cosa è successo? No, niente di grave, nulla. Stavamo parlando con Vittorio che qualcuno è sul canale, sai com'è la solita questione che ci parla sopra, e quando due stanno facendo una questione, io dico questo, quando le persone fanno un questione, spostati di canale oppure vattene e ti allontani e lasci fare alle persone le questioni in santa pace, hai capito? Ah, capo, ho capito adesso. Ah, che hai inteso me. Ehi, già lo so, Giallo. Oh, Giuseppe, ti capisco. Ma io dico, solo una cosa ti dicono, quelli che fanno queste cose sono persone che muovono qua adesso. Non ti preoccupare. Boh, tutto il discorso, non voglio aggiungere altro. E prendi tu, Vito, dai. Sì, sono, vabbè, capita, devo iscriversi, purtroppo, è normale, però dico io, perché stare, ci sono 4-5 penali liberi e tutti addosso lì a parlare, a fare, forse che sono appena, mamma mia, non c'è proprio quel senso di educazione che si deve avere anche per te stesso. Uno che non è educato verso gli altri non è educato neanche lui per lui stesso. Attento, Povoli, sì, stai chiamando? Te l'hai lanciato Vittorio, vai per Vittorio Povoli. Mi sono dovuto un attimino affossare e non ho capito ciò che mi stavate dicendo. Ti stavo dicendo che quando uno non è rispettoso verso gli altri, non è rispettoso neanche per lui stesso, perché è un ignorante. Quello ti do perfettamente ragione, ti do. E cosa vuoi fare? Purtroppo un vedicente si diverte a questa maniera e non c'è nulla da fare. Io una volta, per raccontarti un fatto, avevo chiamato il tipo ed ero stato a casa sua proprio a trovarlo per parlare della sua stupidità che faceva questo ragazzino. Il ragazzino aveva 17, 16, 17 anni, forse 18, 18 forse no. Un 17 anni aveva circa, ed era stato a casa sua, gli ho bussato, lui era ancora lì, facendo un professore, lo sentito dal balcone, perché abita a un tiro di schioppo, un paio di chilometri di mia varia, e ha aperto la mamma e gli ha detto: guarda che tuo figlio sta facendo lo stupido, perché non lo fai, perché non lo smetti? Perché se non lo smette poi glielo faccio smettere io. Questa signora dice: ma no, cioè non c'è, ma cosa non c'è, quello che è, non è tuo figlio, guarda, è ancora lì. Io sono andato abusivamente, mi sono sospinto e tu, quello non è tuo figlio. Dal giorno questo non ha più modulato. Non lo sai che è così, Vito. Purtroppo il problema è un altro, Vito. Che non sono le bicinese, non sono le ragazzine, sono pure là in mani. E già c'è anche qualche grande che fa lo stronzo, però non è sempre che lo fa, il grande già si stanca, non è che sta sempre addosso così, può farlo un giorno, due giorni, e poi si stanca e lo abbandona, e poi non si lascia in pace per un mese. Il problema è che c'è, soprattutto i nuovi quando arrivano, vogliono giocare. Io esempio la radio questa, ce l'ho chiusa a chiave, in questa stanza, dove sto parlando io, ci posso entrare soltanto io, quindi non è che può entrare un altro e ne abusa. Quindi se questo apparato che era fisso in questa posizione è lasciato abbandonato a se stesso per usarlo i figli, e quindi fanno anche lavoro. Sì. Ma vabbè. Cosa vuoi fare? Avanti Giuseppe. Via, sono qua. Il discorso è quello. La gente non capisce che deve imparare a rispettare la gente che è nell'apparato. Dunque, tutto lì il discorso. Capa Giuseppe, io sono perfettamente d'accordo con te, però molte volte queste cose succedono, perché anche a sua volta anche la gente non viene rispettata, capito? Così è il discorso, la gente quando fa un corso all'apparato deve lasciar finire che se vuole entrare chiede il greco e siamo tutti quanti, non è detto che non glielo neghiamo, no. Lo facciamo entrare con una persona civile, tranquillo, fa la sua chiacchiera e rimane in compagnia, punto e basta. Allora succedono queste cose perché a sua volta molta gente non dà rispetto all'altro, ecco perché succedono anche queste cose, oltretutto, è della verità. Riprendi tu, Vito, dai. Io ho sentito, sono rientrato, ma non so se... Sì, sono rientrato, Vito, dai, ma... Ci sentiamo, stavo aspettando che entrasse Fabrizio, ma non è rientrato, quindi rimango con X. Procedi pure, Vito, ciao, buon fine domenica, ciao anche Giuseppe, ci sentiamo nelle prossime linee. Mi ha fatto piacere riascoltarti dopo tanto. A te, Vittoria, ciao, buona domenica. Saluto domenica. No, noi ci siamo portati sul 18, io ti ho sentito di sbiecco, diciamo così. Ti ho sentito, non so se l'hai notato, eravamo sul 18. Non so se loro ti hanno ascoltato. Sentiamo un po' se loro ti hanno ascoltato, però là. Poi passeremo ai saluti. Un attimo da solo. Oh, Giuseppe. Sì. È entrato Claudio, però è entrato nel 17 e io però l'ho ascoltato lo stesso. Voi l'avete ascoltato? No, io non l'ho ascoltato. Dice se si vuole spostare Claudio sul 18, non ci sono problemi. No, stava salutando, io l'ho ascoltato proprio per... Anche questo tratto è un pochettino un po' strano e quindi sono riuscito a sentirlo. No, io adesso vado al 17, lo saluto e poi non ti dico di passare al 18 perché non sapeva che eravamo sul 18, solo un istante. Sono qua, Vito. Vito. Ah, sei passato al 18? Sì, sono entrato solo, ti stavo ascoltando, ma io ti sento anche di splatter, quindi siamo vicini. Pensavo che eri rimasto al 17, beh. E appunto ti ho detto sono rientrato perché mi ero allontanato un secondo e stavo aspettando che rientrasse Fabrizio, ma non è rientrato e quindi niente, beh. Ti lascio, fai buon proseguimento di questo e un buon fine domenica, mi ha fatto piacere ascoltarti. Ciao anche a Giuseppe e ci sentiamo alle prossime, a te Vito. Salutoni, dai, buon tante cose belle, salutoni alla familiare e buon proseguo di tutto. Ti lancio un buon mulino, non so se c'è. Un mulino forse non ti ascolta, Giuseppe? Ciao Claudio, buona domenica, fine della domenica, ho un trabocco per domani, dai. Ci sentiamo alle prossime, dai, ciao ciao. Ciao Giuseppe, ciao, fai un proseguo di serata, le prossime, dai, ciao ciao, le prendi tu, Vittorio. Fai capo. Non so, io un bambolino non l'ascolto, forse sarà sentato. Va bene, l'importante è tirare avanti, Giuseppe, purtroppo ancora sta facendo caldo e non mi posso permettere di uscire fuori. E qua sta facendo caldo davvero, Capa, ho capito, questo. Quando c'è una questione... tutto quanto in casa, è tutto di guadagnato, capito? Risparmi i saluti, risparmi i soldi, risparmi tutto, hai capito? Però devi tenere presente che io l'acqua non mi sono lasciato alla, perché noi abbiamo, nell'antenna dove lavorai c'è un silos pieno d'acqua dove scende per caduta e alimenta tutto, bancali, la canea, la lavandriga, tutto quanto, però io non mi sono allacciato a quell'acqua lì, io ho l'acqua del pozzo. L'acqua del pozzo però, attenzione Giuseppe, che per innaffiare l'orto e innaffiare tutte le piante, il giardino eccetera eccetera, costa per tirarla su, attenzione, non pago a comprarla la frutta ma pago la corrente per tirarla su, naturalmente costa un stavo dicendo, è tutto riguadagnato, perché mi dirai, sì, io ci metto tutto il materiale, le concime e tutto quanto, quella roba là, però alla fine poi sono soddisfatto, hai capito? Sì, certo, perché stai mangiando roba genuina, e hai detto chi alleva un maiale, no? Per dire, un maiale, lo tiene lì, io maiale non ne ho, animali, non tengo né cane, né gatti, sennò questo gruppo più, perché non mi piace, non sono igienici gli animali, sono puzzolenti, ecco. Uno che alleva un maiale, uno che ce lo mette a un maiale, ma arriva una puzza tremenda, fa schifo. E questo maiale che lui alleva, che cosa gli dà da mangiare? Non gli darà roba schifosa, gli darà roba genuina. Al che però, questo procurargli da mangiare buono, quanto costerà? Alla fine tu, quando amate questo maiale, per le somme ti costano il triplo di quanto avresti dovuto comprare la carne per mangiarla. Però è genuina, ma le pagate il triplo, perché ne costate di più. Cioè, la gloria di mangiare carne buona, carne sana, senza essere inquinata, perché oggi con questi, come si chiamano, mangini che stanno facendo adesso, sono uno schifo. D'accordo con te, Vittorio, d'accordo con te, sono d'accordo con te. Però, per il resto, lascia perdere, perché tanto della carne, parlando della carne, non ti puoi fidare, capito? Perché non sai da dove proviene, capito? La provenienza da dove arriva la tua carne, tutto lì è il discorso. Invece se tu hai un bestiame o delle cose, o delle, cosa ti posso dire, delle maiali, delle pecore, delle galline e tutti quanti gli animali possibili, se le coltivi tu, sai cosa ti dai a mangiare, sai cosa ne ricavi, perché c'è cioè tutta quanta roba sana, capito? È tutto lì il discorso. Sì, questo senz'altro, però non è che tu puoi avere tutto, e allora devi avere pecore, capre, maiali, e che cosa facciamo? Ci facciamo uno zoo qua? No, va bene, non si può avere tutto, purtroppo molte pietanze devi acquistarle. Ad esempio, la carne, io ad esempio le compro le fettine, queste cose qua, vado da quella specie di spaccio che c'è al mercato Topotico, adesso non mi ricordo come si chiama. Una volta eravamo tutti arrestati, quelli erano tutti denunciati. Quella carne lì, da dove arriva? Arriva da Chernobyl o no? O arriva da dove arriva? Loro dicono carne sarda. Ma quella carne sarda? E allora perché non ce lo metti che è carne sarda? Ma c'è scritto niente, loro si tagliano, dice mi dia 10 bistecche di mango, bene, le taglia e te le dà. E da dove arriva? Mica c'è scritto da dove arriva, perché c'è una dietro nella vetrina lì. E quindi siamo sempre lì. Ma anche nelle macellerie, se tu dici di dove è questa carne, allora ti dice di Nulvi, oppure ti dice di Fatala. Ma Fatala manco di cartolina l'ha vista. Allora, la carne sana, te lo spiego io come hai detto, la carne sana, quando c'è uno c'ha dei maiali, o delle anelline e tutto quanto, che sono più vivi, le vedi, e te le ammazza di fronte a te, di fronte a te, sai che quella carne è buona, hai capito? Perché sai da chi provengono e da chi li ha curati e tutto quanto. E sai che puoi mangiarla quella cosa lì, capito? Le altre carne che ti danno, tipo, cosa ti posso dire, quello che vengono al città-mercato, sì, ti mettono la provenienza, però ne sai molto tu se veramente quella cosa proviene da quel posto. Sì, questo che hai detto tu è una cosa giusta, per carità, però c'è un'altra faccia della medaglia, che adesso ti spiego. Quando vai da un allevatore a comprare un agnello, se l'agnello è malato, tu lo sai, mica l'allevatore ha chiamato il veterinario quando te lo stava ammazzando per vedere se è sano o è sano, se c'è malattie. E così sono maialetti che compri a Milano a Monteleone o a Oslo. Compri questi animali presi così dal proprietario e se hanno malattie non lo sai, quella se la manda, è la metà della porcheria, e se hanno malattia lo sai che malattia ha. il veterinario ci vuole sempre. Quindi alla fine non sai che pesce prendere, se comprarla in macelleria o comprarla dal proprietario. E sei in bilico. Ma in macelleria, ho detto, vedi tutta la carne che è scotta. Il discorso cambia, perché loro ti mettono sì, provenienza dalla Sardegna, provenienza da tizio che io sempre ho, provenienza da chi è proprio le cose. Però questo tu non puoi mai sapere da chi te la dà, da chi la riceve e tutto quanto, capito? Sì, ma il problema non è quello, il problema è che il proprietario che ha un allevamento di animali tipo pecore, gli agnellini che si comprano a Natale, questi agnelli che sono allo stato bravo, per modo di dire, che gli agnelli poi vengono mangiati, rientrano alla base la sera, li mangiano e intanto vengono munte nel frattempo. Questi animali, questa pecora qui, questo agnellino, quando viene ucciso da lui lì nell'ovile e se lo dà, quello deve essere controllato da un veterinario. Non è che lui abbassa l'animale che lo dà, è una malattia, non lo sai. Mentre in macelleria invece, le cose che gli vengono portate, c'è lì. Senza che ci sia il controllo in macelleria. Ci vuole di quello che mettono avanti al veterinario e tutto quanto, e mettono, una volta che il veterinario ti dice sì, è a posto, devi mettere direttamente il timbro, hai capito? Sì, d'accordo, il timbro lo mettono in macelleria, ma dico il privato, secondo me, l'agnello preso dal privato, da Patata, da Burgio, in che si paesi, più genuini. Ci sentiamo domani, ciao.